del fatto che già avevamo invitato ovviamente Marco Giornale, specialmente chi è di Marco, appunto, può raccontarci un po' quella che è stata l'opera e l'importanza anche proprio come figura di Alessandro Orologi. Io vi dirò soltanto, cioè, proprio poche cose, che ti ringraziamo tantissimo, ma insomma, sappiamo che anche è un pezzo piacere quello di essere qui e dedicarci questo spazio, perché è uno spazio che forse ci stiamo dedicando a lui, ma anche a noi, per lui. Quello che mi preme soprattutto di sottolineare di quella che è la scrittura di Alessandro Orologi e che sentiremo poi dai testi stessi, è che è una scrittura che ci, almeno per quanto mi riguarda, però poi direte voi, che ci apre alle possibilità della scrittura poetica. Cioè, ogni volta leggendo Alessandro Orologi mi trovavo un po', non spiazzata, ma più invece piacevolmente sorpresa nel dire: ah, ok, è successo questo, può succedere anche questo con la poesia. E questo può succedere, si manifesta in varie cose, si manifesta sia nel può succedere nella poesia, può succedere, lo faccio succedere nel libro, ma anche in quello che può succedere, vogliamo che succeda e magari ci diamo da fare affinché succeda, che poi è la parte invece di, non lo so se chiamare attivismo della poesia, però sicuramente del darsi cura per far sì che poi le cose accadano anche intorno alla poesia. E in questa qualità c'è un incontro poi con Marco Giovenale e Alessandro Orologi, che si sono ritrovati infatti nel progetto Gamma, ma anche in tanti progetti di scrittura, ma in questa linea, no, di creare sia con la scrittura, ma anche per i poeti, per la scrittura, per fare in modo di allargare sempre di più quelli che sono dei limiti che poi, infatti, diciamo, cioè, non è che c'è un diktat interiore di questo è poesia, questo no, però forse sì, e quindi allora bisogna che qualcuno lavori per cancellare questo presunto diktat che dice che poi qualcosa è e qualcosa non è. Io passo la parola a Marco, che già ha avuto modo di ascoltare, quindi nelle sue opere, e ci parlerà un po' di questa storia, e cerchiamo anche di analizzare infatti dagli inizi un po' di quelle che sono le produzioni iniziali, qui c'è tanta sperimentazione, ma passo la parola, altrimenti io... Di che tipo di sperimentazione parliamo poi? Perché tante sono state, no? Negli anni il Novecento è ricchissimo di materiali, le avanguardie storiche ci hanno abituato soprattutto a un certo tipo di lavoro sul linguaggio, cioè un lavoro plastico, magmatico, che arriva non soltanto dalle... che parte non soltanto dalle parole in libertà dei futuristi, ma da tutta la storia delle avanguardie, non soltanto italiane, ovviamente nel corso del secolo scorso, fino alle esperienze del gruppo 93, per esempio, che ha avuto tra l'altro qui a Napoli una presenza molto importante, anche perché bisogna fare assolutamente i nomi, è impossibile non farli, dei tre redattori importanti della rivista Baldus, che sono Mariano Baino, Biagio Cepollaro e Lello Voce. E quindi diciamo c'è un impianto, un orizzonte d'attesa nella ricerca letteraria che nel corso del Novecento si è configurato in un certo modo. L'editoria non è stata sempre molto d'accordo con le avanguardie, anzi più delle volte no, e di conseguenza nel tempo si sono avute varie vicissitudini che hanno un po' conosciuto tutti coloro che hanno fatto sperimentazione, ricerca, e tra cui anche chi nella generazione poi successiva a quella dei nomi che ho appena fatto si è trovata proprio nell'occhio del ciclone di una contingenza storica un po' particolare, una contingenza che ha visto alla fine degli anni 70 e nella, ancora forse qualcosa riusciva a accadere per una parte degli anni 80, si è trovata a combattere con una fortissima, un fortissimo ritorno all'ordine, chiamiamolo così, e che dal punto di vista editoriale era anche estremamente, diciamo così, agguerrito. Tanto che appunto non è un caso che proprio in risposta a questo ritorno all'ordine c'è stato il grosso lavoro fatto appunto dai redattori di Baldus fino al 1996, quando la rivista interrompe le pubblicazioni, ma ovviamente dal 1989 a Milano Poesia, tutto ciò che è stato fatto appunto dal gruppo 93 fino all'anno dello scioglimento, che poi in realtà non ha per fortuna significato l'interruzione dei lavori, anzi dei vari autori, che è stato appunto il 1993. Gli anni 90, prima gli anni 80 e poi gli anni 90 hanno segnato però un progressivo sgretolamento dei materiali reperibili effettivamente sugli scaffali delle librerie, un grosso lavoro di così ai fianchi della sperimentazione linguistica, e questo ha portato a una generazione che frequentava l'università alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, come la mia, quella di Michele Zaffarano, quella di Gerardo Bortolotti e quello di Alessandro Broggi, ma mettiamoci anche Andrea Inglese, Andrea Ramos, a effettivamente trovare una situazione abbastanza difficile e diversissima da quello che succedeva invece per esempio in Francia o in altre culture, come le varie culture anglofone. Tant'è vero che Michele Zaffarano, che faceva la sua l'università, faceva la sua tesi di dottorato nel 1992, se non sbaglio, a Parigi, si trovava in una situazione di sperimentazione, di autori che leggevano nei caffè, di reading anche improvvisati, eccetera, eccetera, che erano completamente l'opposto di quello che potevamo esperire in Italia. Questo ha fatto sì che lui, per l'area francofona, traducendo, lavorando su questi autori sperimentali francesi, uno su tutti che posso citare è Christophe Tarcos, e Gerardo Bortolotti a Milano, meglio a Brescia, traducendo materiali invece dall'inglese, soprattutto delle aree statunitensi e canadesi, diciamo, hanno un po' scavato come talpe sotto gli anni 90, non potendo contare su interlocutori di alcun genere, né nelle riviste né nelle case, tantomeno nelle case editrici. Poi comunque anche lì la giovane età ha il suo peso. Se noi vediamo adesso per esempio la situazione editoriale e la situazione delle possibilità che internet offre, le redazioni delle riviste online, eccetera, eccetera, noi abbiamo un quadro incredibilmente più ricco di quello che poteva essere negli anni 90, una situazione in cui già la grande editoria stava cominciando a tagliare tanti fili, e soprattutto la grande distribuzione all'inizio degli anni 2000 avrebbe poi per esempio spazzato via le riviste dagli scaffali delle librerie generaliste. Da Feltrinelli da un certo punto in avanti non era più possibile trovare, che ne so, il Verri o l'Erbavoglio o tutte le altre riviste che hanno fatto comunque il Gallo Silvestre, cioè tutto l'arco costituzionale, quindi non sto parlando soltanto di ricerche letterarie. Succede che in un convegno sicuramente non dedicato alle scritture sperimentali, che era organizzato dalla rivista Atelier alla fine del 2003, una delle mie insofferenze, che era un'insofferenza nei confronti del fatto che nei poeti sembrava vigere una sorta di non luogo a menzionare, nominare e interfacciarsi con l'arte contemporanea, ho fatto un intervento in pubblico in convegno organizzato da questa rivista, esattamente su questo, cioè sulle relazioni tra fotografia contemporanea, artisti contemporanei, per la fotografia Alessandra Tesi e diversissima per esempio invece da un altro nome che ho fatto per l'arte contemporanea, che era quello di Matthew Barney, che avevano secondo me dei riflessi molto netti su e in alcune produzioni letterarie, soprattutto faccio un esempio che oggi scrive in maniera completamente diversa, però i testi che poi sarebbero diventati parte del Colore Oro di Laura Pugno avevano un dialogo fortissimo con l'arte contemporanea, tant'è vero che le immagini interne al Colore Oro erano di un performer che usava il corpo per lavorare con delle vernici, eccetera, eccetera. Quindi facendo questo intervento, tra chi ascoltava in sala c'era Alessandro Broggi, che io non conoscevo assolutamente, viene da me e mi dice: ma io lavoro per una rivista, lui era giornalista, cioè avrebbe poi preso la tessera da giornalista, ma ha fatto tantissimo lavoro da pubblicista prima appunto e poi da giornalista poi, con The Nast, e lui si occupava precisamente di arte contemporanea, quindi se ne andava in giro per il mondo a studiare, leggere, trovare artisti che fossero più o meno in sintonia con alcune cose che lui interessavano dal punto di vista letterario e che trovava molto di più nell'area tedesca o nell'area anglofona piuttosto che in Italia. E da quel momento nasce questa amicizia e si collega all'amicizia che c'era tra Gerardo Bortolotti e Michele Zaffarano, che uno per l'area francese e uno per l'area statunitense stavano traducendo quegli stessi autori che Alessandro Broggi indipendentemente già apprezzava. Attraverso di me, quindi io senza saperlo, ho messo di nuovo in contatto Michele Zaffarano e Gerardo Bortolotti, che loro tre già si conoscevano, cioè Alessandro Broggi aveva fatto l'università con loro, però si erano persi di vista. Quindi sostanzialmente si è formato questo quartetto, questi quattro gatti effettivamente, che più o meno trovavano una sintonia nella appunto ricerca letteraria, che non era una ricerca letteraria che si allineava al discorso della plasticità del linguaggio, del grande maestro di Laborintus, quindi non era una ricerca di carattere sperimentale sanguinetiana. Era più sul versante della limpidezza del linguaggio, cioè dell'azzeramento dei picchi semantici e del tentativo di produrre una prose très prose, per esempio, ecco, una prosa molto prosa. Tutto questo ci ha portato a fondare una rivista online che si chiama GAM, che ancora esiste, anche se zoppicante, e si chiama GAMM, si scrive GAMM.org, quindi c'ha 3M, e ha con questo diffondere in Italia degli autori che poi bene o male un po' sono passati grazie a questo tipo di lavoro, che è stato un lavoro sostanzialmente di internet, di rete. Se non ci fosse stato internet, molto probabilmente tutto questo finiva in un ciclo stilato, però sappiamo poi ciclo stilati all'altezza degli anni 2000 che fine potevano fare. Diverso il panorama appunto agli anni 70, e quello che sto dicendo, questo ventennio che ci separa dagli anni 70 è stato disastroso per le autoproduzioni, almeno insomma, a testimonianza nostra. Quindi che succede? Che nel 2006 fondiamo questo sito, nel 2009 Andrea Cortellessa ci chiede un libro che raccolga l'esperienza anche di sperimentazione di queste varie voci. In quel momento nella redazione erano entrati anche Andrea Inglese e Andrea Raos, e quindi esce questo libro, si intitola Prosa in Prosa, che noi non pensavamo poi avesse il successo che dal punto di vista almeno della critica, poi il pubblico vedremo, fatto da testi, singoli libri sostanzialmente di Inglese, Bortolotti, Broggi, Zaffarano, Raos e chi vi parla. E una prosa che è esattamente l'opposto dell'idea di una prosa poetica o di una poesia in prosa, cioè una prosa che è veramente prosa, nasce come tale, vuole essere tale e non ha neanche un imprinting o volontà e intenzione narrativa. E in questo uno dei maestri, e adesso dopo questa lunga chiacchierata però effettivamente bisogna dire che è stato veramente Alessandro Broggi, che ci ha insegnato soprattutto a lavorare sui materiali i più quasi inconsistenti della comunicazione generalista. Quindi lui moltissimo ha lavorato per esempio con alcune quartine che ha composto centinaia, per poi selezionarne con attenzione chirurgica soltanto alcune, un librettino che uscì per Transeuropa che si intitola Coffee Table Book. Che cos'è un Coffee Table Book? È un libro che si trova sul tavolo di un bar e che solitamente non presenta eccezionali contorsioni sintattico-grammaticali, lessici straordinari, eccetera, ma è a volte quasi una banalità sconcertante. Ovviamente Alessandro Broggi metteva in scena questo tipo di lavoro esattamente in senso critico nei confronti di questo tipo di linguaggio, però lo faceva in quella maniera assolutamente fredda che permette al lettore di rimanere assolutamente sconcertato e spiazzato, perché si trova davanti a dei testi, delle quartine in questo caso, sto pensando a Coffee Table Book, che di una algida banalità, che effettivamente mettono il lettore in crisi, dicono ma questa è poesia? Che è la stessa cosa che si domandavano tutti quelli che leggevano Sanguinetti, soltanto che questa volta se lo domandano per un testo completamente diverso. Altro modo di lavorare di Alessandro poteva essere quello di prendere dei materiali dai dialoghi che aveva intorno, oppure attraverso delle forme di cut-up, sempre di strutture narrative estremamente semplici che erano proprie della comunicazione della pubblicità, della comunicazione dei rotocalchi, per esempio. E lui ha, un po' come Nanni Palestrini, e in questo assolutamente va detto, lavorato sempre e soltanto, chiaramente con una tattilità in grado di poi modellare i materiali in qualche maniera, non in maniera assolutamente fredda, però ha sempre lavorato con materiali altrui. Quindi ha sempre lavorato riportando su pagina, a volte appunto, le conversazioni più semplici, più azzerate, probabilmente il grado zero della scrittura. E volevo appunto leggere. Vuoi usare ma posso anche stare seduto okay, così allora facciamo fluire un po' il discorso tra testo e commento. E una gran parte dei testi che leggo adesso, che appartengono a quella che viene considerata spesso la prima fase di scrittura di Alessandro Broggi, e poi confluita in Avventure minime, che è un libro che è uscito per Transeuropa nel 2014, se non sbaglio. Dunque, sì, esatto, Transeuropa 2014. Sì. E inizio a leggere proprio da prosa in prosa il testo iniziale, che veniva da una sequenza che si intitola Quaderni aperti. Ipotesi 1. I caroselli girano e noi continuiamo a vedere immagini che non conosciamo, ma che cominciamo a riconoscere a forza di ripetizioni. Se un sentiero battuto passa attraverso una pozza di fango, procedi attraverso il fango. Camminare intorno ai bordi aumenterebbe le dimensioni della pozza. Scelgo una donna, la prima volta che la noto non ha nulla da aggiungere. Il tempo passa. 2. Non è poi così difficile ripetere le cose. A fa sul serio quello che dice e quello che fa. Finge di scherzare e vive la sua vita a sentire lei indifferentemente e ci riesce al 100%. Scambiamo i saluti, nient'altro. 3. Lucidamente aver continuato. Esterno giorno, la trovo che passeggia. Lei piace, succede, sa cosa penso, la sua posizione non ha scopi immediati, altrimenti un'esperienza, un'ipotesi. Nel frattempo ha continuato a camminare. Ritratto di genere. 1. Lei, soluzioni concrete, successivamente, senza bisogno di precisarlo, si comporta di conseguenza, ha molte cose da fare, prima di tutto chiarire, discutere dei fatti. 2. Quello che dicono a proposito nasceranno nuovi interessi, amicizie, è il meno che si possa dire. Cose così. Attività. Faccende. 3. Visto che è meno suscettibile, scegli argomenti dai contorni definiti, carichi di contenuti personali. Ha determinate qualità e le sfrutta. Sa prendere decisioni, una prima uscita, ricorre a nuovi obiettivi, subito avere rapporti. 4. Bussano, entra V. Pochi giorni incontra R, conosce N. N si gira e va su per le scale, prosegue, buio, luci. Mattino, pomeriggio, sera, buio, luci, mattino. 5. Vede i suoi modi pratici, non ha problemi, decide di sposarlo, ottiene ciò che vuole. C'è poi una sezione che si intitola Nuovo paesaggio italiano, che è forse una delle cose più significative di Alessandro, proprio perché con questa scrittura, se vogliamo, bianca, come un rumore bianco, riesce a descrivere però alcuni aspetti della società contemporanea lavorando proprio sul detto altrui, sulle parole altrui. Anna è il nuovo paesaggio italiano, tutti i testi hanno lo stesso titolo, Nuova situazione. Per cui ascoltare Alessandro leggere la sequenza vuol dire tutte le volte trovarsi di fronte a questo costante cerchio o giostra, per citare il primo brano che ho letto, in cui in realtà l'ironia sottile ci suggerisce il fatto che non è nessuna situazione veramente nuova, ma come se fosse un po' la stessa che si ripete. Nuova situazione. 1. Anna è una donna con un uomo, con degli amici che parlano di lei, che la invitano a cena, che la stimano. 2. Vivo una relazione felice, ricca e sana, proprio per questo, dopo aver avuto rapporti molto deludenti, posso affermare che ci sono anche uomini che ci fanno del bene. Certo, la fatica è tanta, ma le esperienze come questa ti aprono gli occhi. Nuova situazione. 1. Confesso, a 8 anni tutto quel che volevo erano tette enormi. A 16 anni portavo la quarta con l'entusiasmo della novità e della giovinezza, ma una quarta a 16 anni non crolla, non ingombra, non involgarisce. L'inferno viene dopo. 2. Camminare e non essere volgari con certe tette è impossibile. Nuova situazione. 1. Sì, sono sola, non riesco a dormire. È un'ora che sono stesa a letto. Ho solo bisogno di qualcuno con cui parlare. Mi sto ubriacando di vodka, così posso sperare di dormire un po'. 2. Chi se ne importa? All'inferno gli uomini. Tutti gli uomini, veramente. Nuova situazione. Stavo prendendo il sole con la mia ragazza in Thailandia quando improvvisamente ho sentito un rombo incredibile. Era come se mi trovassi accanto a un aereo in decollo. Ho guardato in su e ho visto un'onda alta a 7 metri. Sembrava una scena dei 10 comandamenti. 2. Abbiamo cominciato a correre, ma l'onda ci ha raggiunto e ci ha sommerso. Siamo riusciti a riemergere e ad aggrapparci a un palo finché l'onda si è ritirata. Abbiamo visto almeno 25 corpi galleggiare tutti intorno. L'anno prossimo me ne andrò in Versilia. Exit era un'iniziativa organizzata anche grazie, cioè soprattutto grazie a Mariangela Quatteri, che ad Albinea, provincia di Reggio Emilia, ha messo a disposizione una quantità di energia e di veramente di attenzione per queste scritture, ma anche artisti, perché avevamo invitato anche a mandarci dei materiali artisti come Rosa Menkman, un'autrice di Glitch, che poi abbiamo ovviamente potuto riprodurre soltanto nel libro perché non disponevamo di fondi per invitare gli autori. Rosé Rappel da New York, Miron Tè dalla Polonia, e Tra gli autori avevamo invitato ed è venuto ovviamente purtroppo a sue spese Jean-Marie Glaise, che è appunto l'autore dell'espressione prose en prose, prosa in prosa. E abbiamo, diciamo così, in queste giornate di Exit dato voce appunto a questo tipo di scritture. Scritture abbastanza anche diverse fra loro. Se ascoltate leggere Gherardo Bortolotti trovate affinità ma anche differenze con Alessandro Broggi. Se ascoltate leggere me, avete ascoltato prima qualcosa, c'è ancora un'ulteriore differenza. Leggo un testo che si intitola Allegro. Le speranze che si generano quando arriva la primavera organizzeranno il flusso delle immagini attraverso linee delicate, formando un compendio di sottili osservazioni sull'emozione umana. Sarà un incanto di suoni, colori, immagini, una festa per il cuore e per la mente. L'aurora infiammerà l'orizzonte, colorerà le nubi più basse di un rosa aranciato, penetrerà lentamente nel paesaggio e si rifletterà sulle città distanti. Le nuvole chiuderanno la visuale verso i piani più lontani e delimiteranno nettamente il campo. Nell'angolo quieto del giardino la luce investirà corpi segnati da ombre mutevoli, provocando continue ascensioni e spegnimenti avvalorati da una superba distribuzione vegetale. Alberi dai fusti sinuosi e dalle fronde verdastre palpiteranno contro un cielo velato di nuvolaglie. Una loggia ad arcate in pietra serena sarà animata da una folla illuminata in pieno sole, immersa nella luminosità mattutina di un meraviglioso brano di campagna. Un'atmosfera di limpida familiarità aperta sul celeste pallido del cielo, popolato da uccelli volteggianti che si riposeranno sulle cornici delle finestre. La luce suggerirà i volumi e le qualità delle superfici. Ogni oggetto vivrà e rilucerà in uno scrigno prezioso di intangibile bellezza, rinnovando perennemente l'immersione in un mondo di visione cristallina e bruciante realtà visiva. Quando abbiamo ospiti di Jean-Marie Glaise a Parigi, letto in occasione di un numero monografico della rivista NIOC, diretta appunto da Jean-Marie Glaise, in un istituto di cultura, dei testi, uno di questi testi, una serie di questi testi, non veniva letto nella traduzione francese dall'autore, ma da un autore francofono che era lì. E nel caso di Alessandro Broggi, lo stesso Jean-Marie Glaise letto. Quando leggeva non poteva fare a meno di sorridere, se non di ridere apertamente, perché il testo che vi ho appena letto è evidentemente giocato su tutta una serie di luoghi comuni che fanno veramente cadere le braccia. Ed è esattamente una pratica, tra le altre, non è quella di altri testi che vi ho letto, che Alessandro appunto portava avanti, lasciando a volte, in questo caso in maniera più spiccata, in altri casi, come soprattutto in alcuni testi che appunto lesse in quello che si dice all'inglese, lasciando soprattutto che il lettore non cogliesse perfettamente e necessariamente la differenza tra la dizione ironica e la dizione invece frontale. Noi sappiamo che l'ironia è affermare una cosa, ovviamente sottintendendo il contrario. In certi casi, e questo è stato rilevato da Vincenzo Stuni per la scrittura di Michele Zaffarano ed è stato rilevato da Luigi Magno per la scrittura di un'altra autrice tradotta da Zaffarano, che è Nathalie Cantin, in molti casi in queste scritture è come se la natura ironica del testo venisse costantemente colpita da una sorta di raggio intermittente, una sorta di flickering tra l'ironico e il non ironico, per cui noi rimaniamo sul bilico di capire se l'autore sta veramente scherzando con la nostra percezione del banale oppure se veramente quella è una frontalità tale, e per cui questo lascia in qualche maniera sorpresi. E Vincenzo Stuni lo diceva di un testo che poi è stato pubblicato da Ben Wisi, del 2013, che si intitola 5 testi, no, aspetta, vabbè, è un testo di Michele Zaffarano di cui adesso ovviamente ho perso, c'è un lapsus che ogni tanto mi arriva. 5 testi tra cui gli alberi più uno, questo è il titolo. Il più uno è una rielaborazione di un articolo di Gramsci. Ecco, in quei testi lì, in cui praticamente si parla di alberi, per esempio, si è al limite dalla percezione del fatto che quello è una sorta di, come dire, manuale per far capire a un bambino di 5 anni che cos'è un albero, oppure c'è qualche cosa di più, un piano allegorico che è nascosto da qualche parte ma che non si vede. E questa è una delle osservazioni che si faceva a proposito, che faceva Postumi su Zaffarano, che potrebbe essere fatta per alcuni di questi testi di Alessandro Croci, almeno quelli di questo versante, infatti, perché diciamo che a volte, appunto, cioè, dicevamo prima, la scrittura di Alessandro Broggi è stata quasi suddivisa in una sorta di polarizzazione, quasi come se ci fosse un primo momento, un secondo momento, perché c'è stato un cambio, ma anche gli ultimi testi invece sono ovviamente anche hanno avuto un'attenzione diversa da parte di Alessandro, che si è ritirato un po' da quelle che sono le scene per dedicarsi proprio alla scrittura, quindi forse c'è anche proprio una dimensione in cui lo scrivere era diventato qualcosa di diverso per lui stesso, e quindi questo ovviamente fa qualcosa, però quello che ci dicevamo che invece comunque anche in questi testi il fatto che si continuano ad aprire delle possibilità ci dà il segno che è questo fil rouge che continua nella scrittura, quindi più che polarizzare il discorso è semplicemente vedere in che spazio è andato ad aprire quali nuove porte per la scrittura, quindi poi appunto si può considerare forse qualcuno appunto dice magari c'è una leggibilità diversa, cioè, rispetto agli esperimenti di prosa e prosa, però è vero che un testo come Lilio comunque c'è è spezzante, è bellissimo, è un'esperienza di lettura che veramente io consiglio, non so, piccolo, come tutti questi testi, anzi è vero che appunto tante cose poi possono andare per sé, proprio un valore il fatto di avere la possibilità poi di ritrovare invece questa voce in questi testi, e tra l'altro poi per quanto mi riguarda io ci sono proprio dei poeti per cui senti forte una voce nella scrittura e altri che invece non la mettono. Leggendolo io ci ho percepito proprio forte invece questa sua presenza. Questa cosa che tu dicevi, però, rispetto a questa sorta di tentativo di straniamento rispetto al lettore, è comunque indice di un progetto, perché io sto scrivendo proprio e mi prendo cura dell'effetto che voglio avere sul lettore. Anche questo comunque non è qualcosa che appartiene sempre alla scrittura, non tutti scrivono per il lettore, quindi anche questa è una dimensione invece un'altra linea di quello che è un desiderio di fare qualcosa con la scrittura, che è anche fare comunità, cioè questo è anche un'altra dimensione che non sempre non è di tutti gli scrittori, quindi è un valore, cioè, o comunque è giusto menzionare questa dimensione all'interno proprio di quello che ha fatto Alessandro Broggi. Per quanto riguarda il libro, volevo leggere una cosa io, cioè, che poi alla fine l'ultimo magari è quella alla fine, non leggiamo prima perché no, questo per me è un po' invece sì, perché è un po' l'apertura, è la fine di Lilio, che è un testo forse vale la pena farvelo anche un po' guardare. È così, cioè, è una, diciamo, è veramente un attraversamento, quindi non abbiate paura, lo comprate e poi lo leggete in mezz'ora. Questo per scherzare, invece no, perché poi ogni pagina è uno spazio di cui hanno bisogno a volte le parole, hanno bisogno anche di tutta una pagina. Il viaggio nella specie futura sarebbe in condizione di non ingannarsi, a rendere perspicua la propria presenza nel mondo, di vedere il proprio rapporto con le persone, diventare più ricco di significato, prima di accomodarsi a un lieto fine, riuscirebbe a crederci fino in fondo? Chissà dove è andata, dove va. Che senso hanno queste parole? Questo è, secondo me, un altro di... rimane sulla linea, quando tu parlavi appunto di questo estraneamento, ironia, no? Rimane un po' sulla linea, o lo prendiamo sul serio, o non lo prendiamo sul serio, esatto. Comunque è quello l'effetto. Vediamo un po' che cosa hai scelto invece di leggerci per continuare questo percorso. Beh, io intanto sottolineo quello che diceva poco fa Daniela, nel senso che Alessandro è stato una persona di una generosità fuori dal comune, ha curato per esempio una rassegna di poesie e scritture anche molto diverse dalla scrittura, diciamo, sperimentale per un lungo tempo, soprattutto con la Libreria Popolare insieme a Paolo Giovannetti a Milano. E, diciamo, poi un po' la vita lo ha portato a scegliere di chiudersi sul suo lavoro, di concentrarsi sul suo lavoro, e questo sempre comunque diciamo, togliendo anche spazio alle occasioni pubbliche di presentazione dei suoi stessi libri, per cui ha smesso proprio di presentarli, di essere presente, cioè quel tentativo di togliere assertività, egoità alla scrittura che ha perseguito per tutta la vita nei libri che ha scritto, lo ha anche attuato, diciamo, mettendosi a lato rispetto al centro della scena. Io adesso, Daniela vi ha mostrato quello che è l'ultimo libro che è uscito per Arcipelago Itaca nella collana Lacustrine, diretta da Renata Morresi, che è Idillio, appunto, ed è un libro estremamente spesso, diciamo, no? È denso. In realtà questa l'identità del libro è sostanzialmente quella di uno spazio vuoto dove, come giustamente ha detto Daniela, ogni pagina è una sorta di camera di echi dove deve risuonare quell'unico frammento che lui ha scelto. In più la disposizione ne fa quasi un flipbook, sì. Cioè sostanzialmente, se voi lo scorrete così, vedete che le frasi dall'alto scendono pian piano verso il basso, una prima volta e una seconda volta. Anche lì ha evitato anche la forma, diciamo così, recursiva di questo espediente, perché gli ultimi frammenti si fermano, non arrivano a fondo pagina. E considerando anche ciò che significa biograficamente, perché lui l'ha scritto sostanzialmente che era ben cosciente di cosa sarebbe successo, questo non arrivare fino alla fine è anche un significato che ha lasciato a noi di interpretare. Nel 2014 esce appunto Avventure Minime, pubblicato da Transeuropa. Passano diversi anni in cui Alessandro lavora su una quantità inimmaginabile, sterminata di libri, di scrittori, di filosofi, di ogni epoca e di ogni cultura, per comporre questo testo che uscirà nel 2021 e che si intitola Noi. A non così tanta distanza dal libro precedente esce poi questo che noi pensavamo fosse l'ultimo prima appunto di vedere Idillio, che si intitola Sì. Come vedete, titoli anche molto, molto lapidari quasi. Ecco. Noi è sostanzialmente un'avventura collettiva in cui un gruppo di quattro persone attraversa delle vicende che in realtà non sono veramente narrate, cioè non c'è un vero e proprio racconto di cosa succede, c'è semmai una composizione a mosaico di frasi che sono tutte quante estremamente dense, memorabili. Cioè, in questi due libri Alessandro Broggi sostanzialmente compone il negativo fotografico di quello che poi sarà Emilio, dove invece le pagine sono estremamente vuote e c'è una rarefazione della scrittura che non è, è assolutamente opposta a un'idea di rarefazione come poteva essere quella degli ermetici degli anni 30, per dire. Ora, che cosa succede? Secondo me un po' quando qui proprio nel suo testo dice, quindi ci parla di questi bricolage esplorativi, secondo me questa è proprio una definizione, io me la sono segnata, ho detto mi dava un po' l'idea di quello che lui fa, questi bricolage esplorativi, dove poi la cosa interessante è che c'è molto, ritorna molto questa figura del camminare, no? Certo. Anche prima è appunto sì, è come addentrarsi proprio in questo spazio e poi ritrovare queste esplorazioni. Da un po' ha detto quello che mi fa. No, è la dimensione spaziale fondamentale in questo libro, tant'è vero che le due citazioni in epigrafe sono entrambe di questa natura qui. La prima di Gilles Deleuze dice: pensiamo troppo in termini di storia, sia essa personale o universale. I cambiamenti appartengono alla geografia, sono orientamenti, direzioni, entrate e uscite. La seconda citazione è di Perec: credevano di conoscere la felicità, credevano che la loro invenzione fosse libera, magnifica, che impregnasse l'universo a ondate successive, credevano che bastasse loro camminare perché il cammino fosse felicità. Ecco, e tutto questo già anticipa la natura del libro, che è appunto una natura quasi di anabasi, di progressione verso l'interno, di una lenta conquista in realtà di quella che per Alessandro poi è diventata anche una sorta di percorso personale, di presa di coscienza e del fatto di scrivere della propria poetica. Leggo soltanto i primi due brani. La strada è accidentata, piove, stiamo entrando nel paesaggio. Cominciamo a distrarci camminando. A volte pensiamo a una persona in particolare, altre volte è solo l'idea di una persona. Seguiamo puntualmente il percorso. Cosa c'è di fronte a noi? La linea azzurra di un corso d'acqua riflette le prospettive, il tempo si schiarisce. Non smettiamo di ridere, la cosa più importante per noi è che qualcosa succeda. Lo stridio della civetta si fa sentire più volte vicinissimo. Attraversiamo la prima cortina di alberi, il panorama è solo moderatamente boscoso. Diciamo qualche frase con calma. Adesso il tempo si muove più velocemente, una sponda fluviale sabbiosa, la superficie levigata di un lago, la foresta al crepuscolo. In questa zona confluiscono diversi tipi di ambienti, ci sono innumerevoli direzioni. Guardiamo il cielo, qual è l'intero campo delle possibilità? Lo chiediamo agli altri, ma è più che altro una domanda rivolta a noi stessi. La storia lo dirà, sapremo ciò che faremo e avremo tutto il tempo per farlo. Scorgiamo qualcosa in lontananza e avanziamo da quella parte. In uno scenario che chiameremo il paesaggio è notte. Non ci interessano i dettagli geografici né qualsiasi specifica localizzazione. Progrediamo attraverso la vegetazione. La vista è scura, ma il cielo risplende leggermente. Segnano il passaggio tra i termitai scolpiti cespugli alti, appena pochi centimetri. Non ci sono altre persone, si vede piuttosto bene ogni cosa. La nostra conversazione è ad ampio raggio, sono coinvolti numerosi temi, ci muoviamo lentamente, poi giù verso la vallata. Alcuni scoiattoli lasciano il posto dove stavano mangiando, siamo ora dentro al bosco. Due donne e due uomini che si dirigono nella stessa direzione, camminano in habitat alquanto diversificati, si mette a piovere e ciascuno a turno si ferma un attimo a guardare. C'è qualche sincronizzazione nelle loro azioni e un certo grado di comprensione condivisa, o almeno così sembrerebbe. Se li si scrutasse da lontano, un'idea di miglioramento è relativa alle loro intenzioni, ma non è chiaro se queste siano buone o cattive, né in quali termini lo siano. Quattro persone che si incontrano una volta e che forse non si rivedranno mai più. Le informazioni necessarie per comprendere il significato dei nostri spostamenti non ci sono date e non è nota la relazione tra le singole tappe del tragitto, soltanto ci si racconta che avremmo intrapreso un lungo viaggio, due uomini e due donne. Questo viaggio si articola in una serie di avventure che effettivamente marcano una differenza di fondo dalla scrittura precedente. Innanzitutto, però, la cosa che sostanzialmente dobbiamo tenere a mente è che sono tutte frasi che Alessandro non ha scritto, che ha preso da altri. Cioè, è possibile scrivere una narrazione, che non è in realtà una narrazione, io continuerei a definirla prosa e prosa, anche con questa tecnica, e soprattutto arrivare a considerare tutte quelle altezze allegoriche che si stagliano in alcune frasi, per esempio la strada è accidentata, stiamo entrando nel paesaggio, cominciamo a distrarci camminando, cioè tutte realtà che, o anche la frase stessa che ha citato prima Daniela, che sembrano riferirsi o a una poetica o comunque a una situazione allegorica che riguarda tutti noi, ci stiamo inoltrando nel paesaggio, è notte, siamo sottoposti a tutta una serie di riflessioni di questo genere per tutto il libro. Cioè tutto il libro non è soltanto un racconto di un'anabasi, ma è anche il racconto sottilissimo delle percezioni dell'ambiente attorno, in una maniera così articolata, tramata, che a ogni passo ci fa pensare che si stia riferendo questo libro a una situazione condivisa e che quel passo debba essere in qualche maniera citato. Ma non lo facciamo. Perché non lo facciamo? Perché non sappiamo lui da dove l'ha preso. Cioè, tutte le volte che noi siamo tentati di prendere una citazione da questi libri, sappiamo che c'è qualcosa che ci fa slittare all'indietro verso un'origine che non conosciamo. E questa è un'altra delle possibilità di leggere questi libri senza farsi prendere dall'ossessione della bella frase, anche se sono tutte belle frasi. Però possiamo, senza sentirci noi così in debito nei confronti dell'autore con la maiuscola, trattenerci da questo atteggiamento. Ah, questo è poi un esercizio che ti pone fuori dalla idea della creazione, no? Che poi è una retorica abbastanza pesante, è molto difficile uscire, quindi questo non creo, però senza la C maiuscola, che sembra che poi sul poeta pesa abbastanza, quindi questo esercizio è effettivamente, poi dice riferirsi appunto a Borges, che vede la lingua come un sistema di citazioni, effettivamente poi tutto postmoderno, cioè, si nutre di questo, però appunto leggendo ovviamente, come dici tu, è un intreccio vivo. Noi abbiamo sì ancora un po', ci perdiamo ancora un po' della vostra pazienza per arrivare a, cioè, no, il penultimo che è sì, sempre trovate in antiche edizioni, e dove c'è un'operazione, comunque ancora una volta c'è una struttura, questa volta invece in tripartita. Sì, tripartita, dove ci sono, sì, dei tempi. Una struttura tripartita con una coda, il primo segmento si intitola sì, inizia in media stress, cioè inizia quel frammento che si intitola, che è numerato 41 se non sbaglio. Sì. E poi la sezione altri segni, terzi un quid e ultimo esempio, quindi una sorta di coda in questa struttura tripartita. Ma non voglio prendere tempo, voglio soltanto leggere un testo, perché penso che siamo in chiusura ed è giusto non approfittare della vostra pazienza, per darvi un'idea anche della, come dire, della affinità di questa scrittura alle scritture iniziali di Alessandro che abbiamo letto. E questo libro diciamo, accresce in maniera esponenziale la densità frasale che era già di noi, quindi forse ha un contenuto meno linearmente narrativo, più frammentario, ma questi frammenti sono tutti pesantissimi, anche se qui leggerò un frammento che è più leggero tra virgolette, e sicuramente però in coda c'è il veleno, e anche dal punto di vista biografico, ricordando la vicenda di Alessandro, perché il libro è a pagina 37. Al centro di inesauribili eventi, qualità, relazioni, ti accosti al gioco d'azzardo, devi cedere la tua ditta di tappezzerie, sei afflitto da tensioni lavorative, ti appresti ad allestire una sala prove, sei gravato da sclerosi professionale, prima di esaurire le consegne con un furgone coperto, le tue motivazioni personali, la catena del valore, le credenze tipiche, i circuiti chiusi di associazioni, una vita di condizionamenti, convinzioni e copioni. Sei stato il biografo di Helen Morgan, di Wallerstein, di Alice Coltrane, le lezioni con Carl Friston e Klaus Maria Brandauer, hai dato avvio a una setta religiosa incentrata sul pensiero di George Spencer Brown, provveduto come meglio hai potuto a condurre l'azienda agricola di famiglia, non faticando a far fronte al caro vita. Sei sul punto di impiantare un allevamento di conigli, arieggi la serra dei limoni, ti premuri di tagliuzzare l'aneto, di friggere la scorza nera, di mettere il latte a vanigliare al fresco della sera, ti stremi a vendere antifurti, entri in una comune, apri una lavanderia industriale, i tuoi mestieri, antropologo forense, drammaturgo, meteorologo, sportellista, profumiere, sei fioraio ambulante, sovrintendente, alienista, rabbino, ti presenti a casting per spot pubblicitari, ti trovi in riparo dalle necessità, approdi al giornalismo, non sei più annoverato tra la popolazione attiva. E da ultimo, il periodo di riposo di una forza lavoro non conforme, oltre le grandi linee di una storia esterna e apparentemente conclusa, oscura preoccupazione della malattia e della morte, dell'irresistibile itinerario al nulla, le ciglia incollate dal pianto. Un tipo occhiuto, smagrito, che ha disimparato tutto quello che aveva appreso su empatia e disperazione. Un essere umano fatto salvo e poi spacciato, che so, tutto si tiene, processi di vigilanza materiale su nascondigli per topi e macerie. Nato con niente, adesso vado con niente. Ringrazio per la vita che ho avuto e do il benvenuto alla mia morte. Grazie a voi, grazie a Flip. Grazie veramente, perché e grazie veramente, sì, è vero, grazie a Flip, grazie a tutti quelli che lavorano a Flip, perché senza ovviamente questo spazio che si crea, questo contesto, effettivamente sì, non avremmo avuto modo di così intimamente attraversare questa vicenda poetica, di scrittura, di fantasia, di canzoni, quindi siamo stati, penso, tutti molto felici e grazie. Adesso possiamo, sì, vi rilanciamo a, ovviamente, domani, prendo il programma perché